Radio Azione. Radioazione.org. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione. Radioazione.org. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radiazione lunedì 23 febbraio, dopo una settimana si ritorna qui con la diretta d'azione. Venerdì è stata ferma, ma per cazzi miei più che altri. Invece oggi si ritorna con la diretta, quella con la controinformazione e la lettura di Nessuno ci salva di Sergiu Piasecki. Ricordiamo gli indirizzi utili per Radiazione, che è radiazione@artistici.org per chi vuole mandare scritti, comunicati, mail, news, per dare una mano anche a Radiazione per aggiornare il sito, oppure anche per mandarci dei consigli sui libri da leggere il lunedì su Radiazione, che ricordiamo sempre non testi anarchici, ma romanzi, testi di narrativa che comunque ci abbiano delle tematiche che bene o male sono affini, chiamiamole affini, però quelle che bene o male ci interessano, che ci stanno più a cuore. Non è nemmeno fa la posta, Nessuno ci salva parla di ladri tra il confine russo-polacco, in un'epoca molto sensibile, in un'epoca molto e quindi vabbè, quindi chi ha qualche idea sui libri da leggere su Radiazione può scrivercelo attraverso la mail che è radiazione@artistici.org. Non è Facebook, anzi non ce l'abbiamo, non esiste Facebook. Ho detto non elenco i motivi, perché sarebbe molto scontato scrivere il perché Radiazione o il sottoscritto non fa uso di Facebook. È capitato che qualche compagno ci ha scritto, ha detto vabbè, ma io ho scritto su Facebook. A chi hai scritto? La domanda è effettivamente siamo andati a controllare, esisteva un account su Facebook nome Radiazione, ma è un'altra radio web che si chiama Radiazione. Quindi non scrivete cose a Radiazione. Tra l'altro noi trasmettiamo da Napoli, questi trasmettono da Civita, o Civita Vecchia o Civita Nuova, c'era scritto Civita, non lo so. Una Civita. Una Civita. Non scrivete. È un'altra Civita, un'altra Civita quella. Allora, invece il sito di Radiazione, radiazione.org, dove potete leggere quotidianamente la controinformazione aggiornata, dove potete riascoltare anche le vecchie dirette d'azione attraverso la pagina dei podcast e scaricarvi un po' di materiale nella pagina download libri, opuscoli, cd, manifesti, adesivi, tutto quello che i compagni rendono, ci mandano per farlo pubblicare e farlo scaricare gratuitamente. Poi lo ricordo sempre che sa chi lo scarica e lo mette in diffusione ricordarsi che esistono le casse di solidarietà anarchica, quelle che praticamente raccolgono i soldi e poi le dividono per i compagni che sono detenuti in Italia o nel mondo, poi dipende anche dalla necessità in quel momento. La radio trasmette sul server di server del compagno di Anarchist Library, anaria.net, a cui mandiamo sempre un saluto e un ringraziamento. E ricordo che Radiazione anche in lingua croata, il sito in croato lo potete leggere attraverso il banner che trovate in sidebar sul sito in italiano di Radiazione, se ci capite in croato bene, altrimenti tornate in quello di lingua italiana. Ora ci ascoltiamo un brano, Psychedelic Farce con il brano Mr. Jones, e poi dopo si torna qui e si inizia subito, prima con un riassunto breve perché il podcast della settimana scorsa è andato un po' a puttane, perché praticamente tra cadute di connessione e vari problemi è uscito un vero troiaio, e quindi abbiamo deciso proprio di non metterlo perché era troppo vergognoso. Quindi Marcello vi farà un piccolo riassunto della puntata precedente prima di iniziare la nuova lettura. Psychedelic Farce, Mr. Jones, e dopo Nessuno ci salva di Sergiu Piasecki. Going Rieccoci, Sergio Spiasecki, nessuno ci salva. Come dicevamo, ci vuole un riassunto delle puntate precedenti dovuto alla scarsissima qualità della connessione della diretta d'azione di lunedì scorso. E ci ritroviamo in questo periodo, come dicevamo anche in apertura, sensibile, in cui i bolscevichi hanno preso il potere nei territori in cui si muovono i dritti, e i bolscevichi hanno preso il potere, Filippo il Calvo, uno dei dritti, si è mascherato e si è spacciato per un pezzo grosso della rivoluzione. Ha fatto, ricordiamo, tutta una sua recitazione ad una cena del primate, diciamo, di chi comanda, del governo rivoluzionario, che però è un gran furfante, possiamo dire, utilizzando un termine un po' desueto. Ma successivamente ritorniamo anche a seguire Jan, che poi è il, diciamo, protagonista del racconto di Nessuno ci salva, che una volta liberato, grazie a questo cambio di potere, dalle galere, da cui era peraltro anche evaso, ritorna, diciamo, alla sua vita consuetudinaria e ritrova il suo zio, a cui ha affidato quello che si può definire un investimento dei suoi guadagni nella locanda del Cuculo d'Oro, a suo zio, che però, una volta uscito, fa finta, insomma, fa orecchie da mercante, non gli vuole dare mezza lira e, anzi, per di più, si comporta molto male con la sua dipendente, che cerca di vendere, a cui non paga il salario e che, anzi, addirittura delle volte allunga anche troppo le mani. Quindi adesso vediamo come questa nuova protagonista, questo nuovo personaggio del libro, la Nastka, che è stata presa sotto le braccia protettive di Jan, come prosegue l'avventura del Cuculo d'Oro. Se c'è al mondo una società in cui i membri sentano fortissimo il vincolo dell'umana solidarietà, questa è la società dei dritti. Senza dubbio, il tribunale supremo della mala, se avesse dovuto giudicare della controversia tra Azzardo, lo zio, e Jan, avrebbe dato ragione al nipote e pronunciato un severo giudizio di condanna a carico dello zio. Ma questi non apparteneva alla mala, e perciò bisognava procedere in modo diverso contro di lui. Quando Jan narrò ai suoi compagni come stavano i fatti, questi si sdegnarono come se il torto subito da Jan fosse stato fatto a tutti loro, e si offersero a gara per vendicarlo. Certo, se lo zio Zardon avesse potuto prevedere questa complicazione, avrebbe cercato di essere un po' più conciliante con il nipote. Ma fino a quel momento nel suo locale le cose erano andate abbastanza lisce, ma ora improvvisamente incominciavano a guastarsi. Una sera entrarono nella trattoria dei nuovi clienti. Erano Kazik Moretzky e tre suoi compari. Ordinarono tutto ciò che di meglio si trovava in cantina e in cucina. Sembrava che avessero fatto una scommessa a chi mangiasse e a chi bevesse di più. Le bottiglie e le portate si avvicendavano ininterrottamente, dando un grande affare alla serva e allo stesso Zardon, che faceva già il conto delle palanche che avrebbe intascato al momento in cui avrebbe presentato il conto. A un certo punto uno dei clienti chiamò la serva, che subito accorse dalla cucina. «Di un po'. Anche questo fa parte del menù e sarà poi compreso nel conto?» E Kazik le mostrò un grosso scarafaggio nero che galleggiava nell'intingolo dello spezzatino. «Chiamami subito il padrone!» Zardon stava appunto avvicinandosi al tavolo, e quando vide lo scarafaggio ebbe un gesto desolato e cominciò a profondersi in scuse. «Spiacentissimo, signori, non riesco proprio a capire, che disdetta! E pensare che non ho mai visto un solo scarafaggio in tutta la casa! Se però dite di averlo trovato nello spezzatino, tuttavia mi sembra impossibile... mi sembra impossibile!» Kazik si alzò, infilzò la forchetta con lo scarafaggio con la forchetta e, mettendolo sotto il muso di Zardon, gli disse: «Eccolo qua! Mangiatelo e poi mi sapete dire se è uno scarafaggio oppure no!» Zardon si mise a camminare a ritroso, costernato per la figura ridicola che stava facendo. «Ma... scusate, perché dovrei mai mangiarlo?» «E perché dovrei mangiarlo io, e per giunta pagarlo come spezzatino di vitello?» Kazik era fuori della grazia di Dio, afferrò il proprio piatto e lo scaraventò pieno com'era di intingolo in faccia a Zardon. come se non avessero atteso che questo segnale, i suoi compari si alzarono come tre demoni e iniziarono la loro vandalica distruzione. Il vasellame andò in frantumi assieme ai vetri della finestra. Le sedie volarono in aria, andando a fracassarsi contro le credenze e i tavoli apparecchiati. Intanto Kasich si occupava personalmente di Zardon. Alcuni clienti ritardatari se la squagliarono a tutta velocità, contenti in fondo di aver mangiato e bevuto a sbafo. Zardon tentò di gridare, ma una pedata nello stomaco gli strozzò la voce in gola. Dopo 5 minuti il locale era ridotto a un mucchio di rovine. Per parecchi giorni Zardon fu costretto a letto con la febbre. Si alzò con un'idea fissa: ricostruire la sua amata trattoria. Incominciò a far riparare il mobilio rotto, ad acquistare bicchieri e piatti, a far rimettere i vetri alle finestre. Era un sogno troppo tenace il suo perché non riuscisse a realizzarlo. E un bel giorno la trattoria Il Cuculo d'Oro riaprì i suoi battenti al pubblico. Ma ogni giorno il suo proprietario, appena calava la sera, si affrettava a chiuderli. Dopo qualche giorno capitò a Zardon di concludere un ottimo affare. Un militare gli offrì ad un prezzo più che conveniente 2 bottiglie di cognac. Zardon non esitò un solo istante a comprarle. Il liquore era ottimo. L'indomani il militare ricomparve con altre 2 bottiglie e quando ebbe intascato il denaro chiese a Zardon: «Vi interesserebbe alle stesse condizioni una forte partita di bottiglie? Ne ho circa 300 e vorrei venderle perché fra pochi giorni parto per il sud». «Io posso prenderne anche 1000», si affrettò a rispondere Zardon, timoroso di lasciarsi sfuggire un'occasione più unica che rara. «D'accordo, allora preparate il denaro, stasera stessa vi porterò l'intera partita». «Ah, benissimo, spero che non ci ripenserete». Möglichkeiten längst ver- mare. So ist es. Und wieder mal. So ist es. Lass dir nicht von denen raten, deren Winter steckt der Möglichkeiten längst verbraten. Du musst die Sterne und den Mond ertauschen und am besten auch den Zar. Die Gestirne werden sich behaupten, aber wahrscheinlich nicht der Zar. Du musst die Sterne und den Mond ertauschen und ein bisschen auch den Zar. Die Gestirne werden sich behaupten, aber wahrscheinlich nicht der Zar. E questi erano Einstürzen in Neubaden con il brano Vai Vai Vai, l'ho letto bene? Einstürzen in Neubaden. Einstürzen o Neubaden, molto più striminzito. Allora, ora ripassiamo dopo la prima lettura di Nessuno ci salva di Sergio Spiasecki, passiamo alla prima notizia di controinformazione della giornata. Con un comunicato dei compagni prigionieri anarchici dalla sezione AS2 di Ferrara. Allora, ricordo che praticamente qualche giorno fa Alfredo era stato messo in isolamento dopo aver avuto una discussione un po' accesa con un secondino, e praticamente da lì erano stati presi vari varie misure di punizione verso Alfredo, che era stato messo in isolamento anche per Graziano, e quindi anche la socialità tra loro era stata punita. Ora leggiamo un attimo meglio il comunicato che ci fanno avere i compagni che stanno rinchiusi nella S2 di Ferrara. Ai compagni fuori, 14 febbraio 2015. Poche parole per farvi sapere quanto sta avvenendo nella sezione S2 del carcere di Ferrara. Nessuna voglia, intenzione di alimentare il feroce appetito del cultore del vittimismo o del professionista anticarcerario alla vista dell'ultimo lamento Galeotto. Venerdì 13 Alfredo è stato sottoposto al tribunalino carcerario a seguito di un rapporto ricevuto qualche notte prima per aver insultato una guardia che si era rivolta in modo irrispettoso e provocatorio a uno di noi. Graziano, reo di aver chiesto all'infamone di abbassare il volume. Per la cronaca, tutto è avvenuto dopo la mezzanotte. Oltre alla perdita dei 45 giorni di liberazione anticipata, la condanna ha comportato che Alfredo fosse portato immediatamente in isolamento, o meglio, come dicono loro, escluso da tutte le attività comuni, aria, socialità, palestra e campo. Appena saputo la cosa, in sezione, dopo un breve consulto, abbiamo iniziato una sonora battitura. La richiesta è semplice, li vogliamo Alfredo in sezione. Nel giro di pochi minuti sono arrivati diversi ispettori ai quali abbiamo ribadito la nostra pretesa. Dopo un po' di chiacchiere inutili se ne sono andati promettendoci il più grande onore per loro. Lunedì parlerete con il comandante. Miei coglioni. Questa è un'esclamazione dei compagni. Visto che non sembrava avessero capito quanto avevamo detto, forse per il tono un po' concitato, dopo un'oretta abbiamo fatto partire un'altra battitura e abbiamo terminato la giornata con una battitura by night, allo scoccare della mezzanotte. Oggi nel primo pomeriggio abbiamo dato un'altra scrollatina alle sbarre, domani si vedrà. Al momento abbiamo ottenuto la sospensione della socialità fino a un nuovo ordine di pranzo e di quella di pomeridiana, ma Alfredo continua a non vedersi. Sappiamo che sta bene e se ne sbatte alla grande delle loro punizioni, così come noi ce ne sfottiamo dei loro ricattini e indigesti benefici. Abbiamo la testa dura e continueremo a manifestare la nostra vicinanza e complicità con Alfredo. Questo è quanto, vi terremo aggiornati, compagni anarchici della sezione AS2 di Ferrara, Adriano, Francesco, Graziano, Lucio, Michele e Nicola. Poi c'è un aggiornamento per quanto riguarda il, che ci fanno avere i compagni della Croce Nera Anarchica del 19 febbraio 2015, da telefonata odierna, dice l'aggiornamento, di un familiare con il prigioniere. Apprendiamo che in seguito alle proteste hanno riottenuto la socialità in sezione. E questa è la nota di Croce Nera Anarchica. Invece ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Rabbi Junk con il brano February War, nemmeno a farlo apposta, certo. Anzi, a farlo apposta. Nemmeno a farlo apposta, con il testo appena letto. E poi dopo si ritorna qui con la lettura di Nessuno ci salva di Sergio Spiasecki. We'll be right back. E infatti verso l'imbrunire si fermò davanti alla trattoria, il cuculo d'oro, un carro con alcune casse. Zardon se le caricò ad una sulle spalle e se le portò in cantina, poi pagò il fornitore e lo ringraziò tutto soddisfatto dell'affare che aveva appena concluso. Ma la sua gioia durò ben poco. Un paio di giorni dopo capitavano nella trattoria due ufficiali bolscevichi già mezzi brilli, i quali, dopo aver ordinato della salsiccia, chiesero al padrone se avessero qualcosa di speciale da berci su da bravi rivoluzionari russi. «Ho del cognac veramente extra che tengo per i clienti di riguardo. Corri subito a prenderlo prima che scappi!» Zardon tornò un momento dopo con i bicchierini e una bottiglia che sturò in presenza degli ospiti. «Sentirete che roba!» La servetta stava arrivando con un piatto di salsiccia fumante con contorno di cipolle in umido e i due ufficiali si versarono il cognac nei bicchierini, li sollevarono e dopo aver fatto cin cin li portarono alle labbra. Non credendo al loro palato, si voltarono l'uno verso l'altro guardandosi con due occhi spalancati per lo stupore. Poi sorseggiarono ancora e di nuovo tornarono a guardarsi. Non avevano più dubbi ormai. «Venite qua, voi!» urlò uno dei due a Zardon. «Che cosa c'è?» L'ufficiale indicò la bottiglia. «E questa roba che sarebbe? Una presa in giro?» «Ma sei il miglior cognac al mondo!» «Ah, sì! Volete degnarvi di assaggiarlo, signor host della malora?» Zardon portò alle labbra il bicchiere e rimase di stucco. Era acqua. Comunissima acqua colorata con tè per imitare la tinta dorata del cognac. Questa volta Zardon non le buscò, ma dovette ammettere di essere stato la vittima di un'atroce beffa e per giunta di averci rimesso un mucchio di quattrini. Per parecchi giorni bestemmiò come un turco, senza riuscire a darsi pace, pensando alla truffa ignominiosa che aveva patita. In ogni cliente vedeva ormai un truffatore o un malvivente. Il cuculo d'oro, che una volta prosperava così bene, era diventato una trappola per lui. E senza volerlo, Zardon collegava la scalogna che da qualche tempo lo perseguitava col commiato tempestoso che aveva avuto con suo nipote. Sapeva infatti che ambiente il ragazzo bazzicava e non era affatto da escludere che si dovesse attribuire tutto alla sua vendetta. Ma come fare per accertarsene e soprattutto per rimediare? Pian intanto si dibatteva in sempre più gravi difficoltà finanziarie. Aveva certo sistemato Nastka in casa sua, la ragazza non aveva nessun documento, occorreva quindi procurarle una carta d'identità. Jan non le disse che il documento era stato fabbricato nelle officine della mala, perché Nastka era una merla ed era bene non sbottonarsi troppo con lei. Decise di mangiare in casa per risparmiare, nello stesso tempo per poter affrontare la spesa del mantenimento di Nastka, che, dal canto suo, docilmente faceva tutto ciò che egli le ordinava. Non era tipo da star con le mani in mano, lei. Fin dall'infanzia aveva sempre sgobbato. Jan ne avrebbe fatto volentieri la sua amante, ma gli seccava che la ragazza, la quale dipendeva in tutto e per tutto da lui, potesse pensare che egli ne approfittasse di questa circostanza. D'altra parte, Nastka se ne stava tranquilla e non lo incoraggiava in nessun modo. Jan la considerava piuttosto stupidina ed ella non faceva nulla per modificare questa sua opinione. Per tutta la vita non era stata considerata altro che un paio di braccia robuste e resistenti al più duro lavoro, ed essa aveva finito per convincersi di non essere altro. Non le era mai passato per la mente di ribellarsi al suo destino. Ma un giorno Jan dovette convincersi che Nastka non era affatto stupida come egli aveva creduto. Bisognava comprare della legna da ardere perché il freddo si era fatto intenso e la ragazza ne parlò a Jan. Jan tirò fuori il portafoglio per darle il denaro, ma si accorse di avere appena qualche spicciolo a disposizione. Accidenti! Non ho neppure abbastanza per comprarne un po' di legna. Bisognerà che vada da qualcuno a farmi prestare del denaro. E se andassi a prenderlo dall'oste? In fin dei conti mi deve qualcosa per quei 4 mesi di lavoro che ho fatti per lui. Gli hanno scosso il capo decisamente. È inutile farsi illusioni, non ti darà niente. E in tal caso li prenderò da me. E in che modo? Perché so dove nasconde i quattrini, gli piglierò quello che mi deve. Spiegò a Jan che Zardon teneva il denaro in una cassetta di metallo nascosta in un angolo della cantina. Mancavano alcuni mattoni nel muro ed egli vi ficcava dentro la cassetta, coprendo poi l'apertura con degli stracci. E com'è che tu ne sei venuta a sapere? È perché mi sono accorta che il padrone ogni sera, dopo aver contato il denaro, se ne andava con un secchio in cantina riportandolo pieno di patate e a volte persino vuoto. Mi insospettiva il fatto che non permetteva mai che lo accompagnassi, benché si facesse sempre aiutare in tutto. Un giorno che, uscendo a far la spesa, aveva dimenticato di portarsi via la chiave, scesi in cantina e trovai facilmente il nascondiglio. Però allora non presi nulla perché mi ripugnava a rubare, benché in quel caso, anche se avessi preso del denaro, non mi sarei sentita dei rimorsi sulla coscienza, dato che il vecchio non mi aveva mai pagato il salario pattuito. Ora, però, dopo la parte che ha fatto, sono decisa a portarmi via lo stipendio di 4 mesi. Ma come farai a entrare? C'è in cortile un finestrino che dà nella cantina. Zardon me lo aveva fatto otturare con della paglia perché le patate non gelassero. Ed è largo abbastanza per lasciar passare un uomo. Oh, sì. Hai fatto bene a dirmelo. Ci andrò io. Mio zio mi deve molto più denaro di quanto non ne debba a te. Anzi, tutto il denaro che guadagna è mio. A ogni modo sarai tu la prima a essere pagata. No, no, a me non occorre nulla. Tenete tutto per voi. E quella sera stessa Diane si incamminò verso il cuculo d'oro. Il codice dei diritti vieta loro di rubare a quelli che vivono sotto il loro stesso tetto e ai parenti, ma Jan si assolse da solo senza troppi scrupoli. Il primo a spezzare col suo disonesto continuo i legami di parentela era stato lo zio, e poi, in fin dei conti, quel denaro era suo. C'era poco movimento nel locale. Zardon doveva già arrangiarsi da solo ora, perché anche l'altra ragazza di servizio se n'era andata ed egli non era ancora riuscito a procurarsene una nuova. Jan allora entrò nel cortile, immerso nell'oscurità, e trovò subito il finestrino della cantina mezzo sepolto sotto la neve. Turbinante di un gelido nevischio, pensò: meglio così, non rimarrà alcuna traccia. Bye. Questi erano Saspiria con il brano Sweet Apple. Ora si ritorna alla controinformazione con l'ultimo testo, lo ricordo, una volta al mese almeno si esce con un testo, un po' una ricapitolazione, un editoriale, chiamiamolo un editoriale di radiazione da titolo Riflessioni, e ogni volta ci aggiungiamo il numerino FDSIS 8, questa è la volta dell'8. Lo leggiamo: negli ultimi due mesi sul fronte repressivo internazionale ci sono stati ulteriori colpi da parte dei singoli stati nei confronti di chi non si allinea alle sue direttive e ulteriori inasprimenti di misure detentive, come la messa in funzione in Grecia delle carceri di tipo C, non di tipo gamma come Google suggerisce e alcuni scrivono. Gli arresti nel caso Pandora in Spagna ed il trasferimento dei primi detenuti, tra cui qualche compagno anarchico, nelle carceri speciali greche, ne sono un esempio a livello europeo. A livello internazionale ci sono stati altri colpi, come l'arresto del compagno Diego Rios, latitante da quasi 5 anni, in Cile. Sempre nello stesso paese, la sentenza che ha condannato la compagna Tamara Solva Farias Vergara a poco più di 7 anni di carcere, accusata di aver sparato contro un cane da guardia in una banca a Santiago urlando venganza. Fortunatamente in questi ultimi due mesi non contiamo solo le sfighe, ma anche una buona dose di attacchi a strutture che in qualsiasi modo collaborano per il controllo sull'individuo, per far sì che questi non esca dal gregge portato in pascolo dallo Stato. Soprattutto e sfortunatamente non possiamo stare qui a parlare della fuga dal carcere da parte di alcuni compagni anarchici. Mi riferisco al tentativo di fuga fallito da parte delle CCF in Grecia dal carcere di Korydallos. Ma un tentativo di fuga fallito oggi, una speranza di riuscirci per sempre. Oltre ai fatti concreti di repressione, con arresti e condanne, non sono mancate le minacce. Minacce fatte a noi da parte dei SOA, servizi segreti croati, come radiazione, su presunte formazioni di cellule d'attacco insieme ai compagni greci e croati, la collaborazione con Croce Nera Anarchica, i nostri rapporti personali e con i compagni detenuti nel mondo, minacce e menzogne tramite stampa fatte ai compagni anche del sito Interarma in Grecia. Non a caso vengono messi nel mirino tre siti web anarchici, tra cui CNA e anche in versione cartacea, che provvedono alla traduzione e alla diffusione dei testi rivendicativi e dei compagni detenuti in penitenti. Questo non per far del vittimismo, ma per ribadire ancora una volta che le minacce non fanno altro che irritarci ancora di più, sempre di più, molto di più. Tutto ciò in mezzo alla totale indifferenza da parte degli individui, dei gruppi e dei movimenti statici anarchici. Sono meravigliato di tutto ciò? Non affatto. Se sei antipatico, se dici le cose come stanno, se fai uscire la merda a galla dai tombini dell'anarchia, sei ritenuto un nemico, uno di cui non parlare, ma solo sparlare. Uno che può anche schiattare, perché non siede tra i banchi della scuola anarchica ad ascoltare, imparare e ripetere le lezioni dei maestri. Siamo ben consapevoli che come radiazioni siamo tutto questo, ma se si è odiati per questo motivo, c'è solo da andarne fieri, e come le minacce dei SOA ci rendono più irritanti e più forti. Può darsi anche che molti hanno fatto finta di nulla che sia accaduto, perché fino ad ora ci hanno etichettato come internetari, lontani dalla vita reale e immersi nella vita virtuale. Purtroppo quelli che hanno bussato la porta non erano né Avatar né tantomeno il gorilla di Princess of Persia. Termino questo ribadendo che tutto ciò non mi meraviglia, perché reputo buona parte del movimento anarchico un condominio dove gli inquilini si alleano e si azzuffano tra di loro, quindi preferisco vivere isolato sotto i ponti o su una panchina. Non mi meraviglia nemmeno quello che è accaduto con la questione a scatasunanotav.info, e non mi meraviglierebbe vedere ancora parte degli anarchici collaborare con questi infami, andare a vedere concerti nel loro posto occupato o frequentare iniziative insieme appassionatamente facendo finta di nulla. Si fa finta di nulla su tutto, forse si fa finta di essere anche anarchici. Non mi meraviglia che viene fuori dopo un tentativo di fuga fallito da che quello che fino a pochi giorni fa era considerato il compagno Xiros, con cui organizzare la suddetta fuga, è uno che ha fatto dichiarazioni che hanno sbattuto in galera a parte della 17 novembre in Grecia. Non mi meraviglio che quando è iniziato a circolare il nome di questo personaggio sui mezzi di controinformazione non ci sia stato qualcuno che si dicesse che dicesse frenate, i fatti sono questi. Invece no, siamo tutti compagni. Basta evadere e attaccare lo Stato per essere ritenuto un compagno. Non mi meraviglio che chi ha chiamato compagno marxista-leninista, questa era l'unica cosa che si sapeva da sempre, ha preferito il silenzio pestifero dopo averne pubblicato testi e notizie. Ovvio, si spera sempre che tutto finisca nel dimenticatoio. Ma se è pur vero che molte volte accade ciò, è vero anche che ci sarà sempre chi tirerà fuori la merda dal tombino prima o poi. Ci sarà sempre chi non dimentica tra l'indifferenza parassitica generale. Mi meraviglia invece chi nel 1998 ha rilasciato una dichiarazione di guerra allo Stato, forse una tra le più interessanti che abbia mai letto, che tra l'altro decisi insieme ad altri di stampare su carta da titolo Niente di cui pentirmi, davanti a un tribunale greco, e oggi si rivolge allo stesso tribunale per far aprire un'inchiesta giudiziaria sull'assassinio di un detenuto. Non mi meraviglio però che questo accada dopo l'evoluzione marxista-leninista del pensiero di questa persona. Mi meraviglio però che chi continua a chiamarlo compagno. Non mi meraviglio che molti anarchici continuano a definire compagni marxisti-leninisti. Mi lascia interdetto l'utilizzo di solidarietà a prigioniero politico, infilando nel calderone compagni anarchici e per l'appunto i marxisti-leninisti. Approfitto di questo argomento per mandare un abbraccio forte, solidale e complice ad Amelie e Fallon in Messico, che dopo ne spieghiamo il perché. E perché non inserire anche i nazifascisti? Cosa vi hanno fatto questi poveracci più dei marxisti-leninisti? La verità è una, tantissimi compagni anarchici sono molto confusi e ancora non sanno da che parte stare. Li attira la bandiera nera e la cerchiata, un po' come gli pseudopunk odierni, ma sono più marxisti-leninisti degli stessi marxisti-leninisti. Da qui nasce l'etichetta antifascista che molti anarchici indossano, quindi non mi meraviglio quando vengono da me a criticare la mia critica su certi personaggi. Io sono contro ogni tipo di carcere, sono per la distruzione di ogni tipo di carcere, ma ciò non significa che devo essere solidale con chiunque. Mi viene da vomitare pensando a molti anarchici che hanno sfilato a Cremona con la pagliacciata di voler andare a chiudere le sedi fasciste, quando in ogni città ce n'è una. Intanto passeggiavano a braccetto con i Red Skin, ugualmente squadristi e autoritari quanto gli altri. Ah no, che stupido, sono compagni quelli, hanno la stella rossa e la falce e martello, invece della svastica, già. Morti di Kronstadt, di Spagna 36, rotolatevi pure nelle tombe, ma non fate troppo rumore, altrimenti svegliati i rivoluzionari dai loro sogni. Per finire, in un mondo in cui anche noi anarchici siamo costretti a lavorare ogni tanto ed aprire un conto corrente in banca per farci versare l'elemosina dal padrone, rifiuto l'idea dell'apertura di un conto corrente in banca con il fine di raccogliere soldi per pagare il riscatto allo Stato per liberare i compagni dalle sue patrie galere. Questi non sono mezzi anarchici, preferirei farmi la galera che andare ad alimentare le casse dello Stato. A chi mi viene a dire che i compagni sono più utili fuori che dentro le carceri, rispondo che una volta i compagni venivano liberati in altri modi, con altri mezzi e non attraverso il pagamento di una tangente. Radiazione, febbraio 2015. Questo era il testo, non aggiungo altro perché quello che avevo da dire l'ho detto tutto in questo testo. Ora ci ascoltiamo un brano. Loro sono Die Totenhosen con il brano Achterbahn, il tedesco lo parli tu, e poi dopo si ritorna alla lettura di Nessuno ci salva di Sergius Piasecki. Effettivamente fece un po' di fatica a tirar fuori dall'apertura il grosso fagotto di paglia e quando vi riuscì vide che lo spazio era più che sufficiente per potervi passare senza difficoltà. Seguendo le istruzioni della ragazza trovò subito il nascondiglio, tirò fuori la cassetta, la posò a terra e ne fece saltare immediatamente la serratura. Alla luce della pila vide un discreto numero di banconote, meno di quanto si fosse aspettato, però gli affari dello zio dovevano essere andati piuttosto male negli ultimi tempi. E poi Jan, senza volerlo, sorrise con soddisfazione. Zardon si era visto costretto a sputar fuori quasi tutti i suoi risparmi per rimettere in sesto la baracca dopo l'uragano che vi avevano scatenato Kasich e Soshi. Non sapeva nulla della storia del cognac, altrimenti si sarebbe spiegato ancora meglio il perché di quelle magre riserve. Da esperto professionista come era, esaminò bene tutta la cantina e invece di fuggire subito con il bottino, ma purtroppo non trovò altro che provviste di ogni genere, scatolame e qualche bottiglia di vino. Buttò tutto quello che poté nel cortile attraverso l'apertura e poi prese un sacco vuoto e si arrampicò fuori dal finestrino. Lo turò di nuovo con la paglia e vi gettò sopra la neve. Poi mise tutte le provviste nel sacco e si avviò pacificamente verso casa. Poi non è che era andata molto male la spedizione. Per un po' adesso aveva viveri, vodka e denaro. Fece un rapido calcolo mentale e concluse di aver recuperato sì e no la quinta parte di quello che aveva dato allo zio per aprire il locale. Ma era meglio che niente. In via amichevole, nella migliore delle ipotesi, non sarebbe certo riuscito a cavare di più da quel vecchio spilorcio. Col denaro recuperato, Jan rifornì il misero guardaroba di Nashtka, che non aveva neppure un cappotto né un paio di scarpe che le proteggessero i piedi dal freddo. Diede un terzo della somma a sua madre e le acquistò molte cose necessarie per la casa, ma il denaro oramai era sfumato quasi del tutto. Jan avrebbe dato volentieri anche quel poco che gli era rimasto per sapere che faccia avesse fatto lo zio quando si era accorto che la cassetta dei suoi risparmi era vuota. Ma le disgrazie di Zardo non si fermarono qui. Qualche cosa di peggio lo attendeva ancora. Una sera entrarono nel suo locale, il Cuculo d'Oro, tre clienti, un signore alto, dall'aspetto distinto, e due ufficiali sovietici. Gli ospiti si accomodarono nella saletta separata, una piccola stanza che si trovava a destra della porta d'ingresso, e tutti insieme ordinarono antipasti freddi e birra. Avevano portato con sé due mazzi di carte e, appena seduti, si misero a giocare al poker. Zardo non conosceva il gioco, avrebbe fatto volentieri il quarto, ma era troppo occupato, dato che non aveva ancora persone di servizio e doveva fare tutto da sé. Il signore distinto non era altro che un noto dritto conosciuto nella mala con il nome di Giulio il banchiere. Era un oriundo di Lodz, dove aveva sempre vissuto, occupandosi dei più grossi merli di quella città. La sua specialità consisteva nell'addormentarli versando nella vodka o nel caffè che offriva loro un potente sonnifero e poi nello spogliarli di tutto ciò che avevano addosso di valore. E appunto con questo scopo aveva invitato i due ufficiali sovietici al Cuculo d'Oro. Li aveva conosciuti al caffè della stazione dove aveva attaccato discorso con loro mentre giocavano con altri due a un tavolino. Si era accorto che avevano, nonostante fossero dei rivoluzionari, i portafogli ben imbottiti e che per giunta la fortuna li assisteva al gioco accumulando davanti a loro banconote su banconote. Allora il banchiere attese pazientemente che la partita finisse, poi quando gli avversari se ne furono andati offrì loro da bere. Li ubriacò ben bene e infine li invitò a cena al Cuculo d'Oro, promettendo loro che più tardi li avrebbe portati a trovare delle belle figliuole in un posto un po' equivoco ma famoso per la bellezza delle ragazze. «È ancora molto presto per andarci», disse quando l'ufficiale accennò che forse era l'ora di darsi ad altri sollazzi. «Facciamo un'altra partita», e ordinò a Zardon di portare della birra. Mescendola nei boccali vi versò insieme senza farsi accorgere la polverina del sonnifero in una dose tale che pochi istanti dopo i due stramazzarono a terra privi di sensi. In un batter d'occhio Il banchiere li perquisì, spogliandoli di tutto ciò che avevano di prezioso addosso: denaro, orologi, stilografici, anelli, spille. Tolse loro persino i gemelli della camicia. Poi, fischiettando, uscì dalla saletta con le mani in tasca. «Oste!» gridò a Zardon. Questi si avvicinò premurosamente. «C'è un gabinetto qui?» «Nel cortile a sinistra, scusate se non è... non importa!» Fu solo dopo un quarto d'ora che Zardon, notando che il distinto cliente non si decideva a rientrare, uscì in cortile a vedere. La porta del gabinetto era spalancata e l'interno vuoto. Allora si precipitò nella saletta per accertarsi che anche due ufficiali non fossero usciti mentre egli era in cortile, e si fermò esterrefatto sulla soglia. Uno dei due, con le braccia penzoloni e le gambe larghe, era accasciato sulla poltrona, pallidissimo. L'altro, pure bianco come un cencio, era addirittura a terra, lungo disteso. Zardon comprese con terrore che qualcosa di losco era accaduto nel suo locale. Se non vi fossero stati altri clienti nella sala comune, avrebbe cercato di trascinar fuori quei due a prendere il fresco in strada, ma a quell'ora, a quell'ora il locale era pieno. Le cose si misero subito molto male. I due ufficiali, a furia di spruzzate d'acqua fredda un po' alla volta, si riebbero, e quando furono in grado di ricostruire la losca vicenda di cui erano stati appunto vittime, si scagliarono contro Zardon, accusandolo di complicità col banchiere e trascinandolo con loro al più vicino posto di polizia, dove venne arrestato. La complicità di Zardon parve dimostrata dal fatto che il banchiere aveva insistito perché la scelta del ristorante cadesse proprio sul cuculo d'oro. Ciò che poi accrebbe i sospetti del giudice investigatore fu la nessuna abilità con cui Zardon, preso dalla paura, tentò di discolparsi, cadendo anzi in frequenti contraddizioni. Per esempio, non ci fu verso di fargli ricordare i connotati del banchiere. Prima affermava che aveva gli occhiali, poi diceva di non esserne sicuro, diceva che aveva la barba bionda, poi negava di averlo detto. Vennero fatti tentativi di ravvivare la sua memoria a sonde nerbate, ma senza risultato, perché egli effettivamente non sapeva niente di niente sul banchiere e su come si erano svolte le cose quella sera. Due settimane dopo di continui interrogatori, alternati con botti, Zardon, loro malgrado, venne rimesso in libertà. Affamato, sporco, pieno di pidocchi, si precipitò subito al mercato dei cavalli per vedere che cosa fosse successo della sua trattoria. Se l'aspettava di trovare tutto in rovina, ma c'era ancora quel gruzzolo nascosto al quale erano state affidate tutte le sue speranze di vedere risorgere un giorno il cuculo d'oro. Ma la cassetta era sparita. E per di più gli agenti di polizia, dopo averlo accompagnato in galera, erano tornati nel suo locale e si erano dati alla pazza gioia, vuotando fino all'ultima bottiglia e riducendo tutto in uno stato pietoso. Neppure loro si erano lasciati sfuggire l'occasione di dare una lezione a Zardon, che nessuno poteva vedere per la sua spaventosa tirchieria. Mai una volta che avesse offerto un bicchierino di vodka a una guardia che pure vigilava sulla sua sicurezza della sua bettola. A compir l'opera Posito. Talk, don't run, be can walk, don't cheat, compete, don't miss the one beat. court. Don't fall your sword, just play another chord. If you feel you get bored, I feel numb. Don't change your brand, don't listen to the band. Don't gate, don't hate, don't change your shape. Have another great. I feel numb. I feel numb. Don't play, don't bridle, don't chuckle, don't grind, don't curve, don't swerve. Life does serve. Don't theorize, realize, polarize, change things, dismiss, apologize. Questi erano dk.com con il brano Numb. Ora si ritorna alla controinformazione. Prima era stato citato un saluto, un abbraccio solidale e complice con Amelie Fallon, e ora capirete il perché ho fatto quella citazione nel testo delle riflessioni numero 8 di Radiazione. Testo di Amelie Fallon dal Messico, dal carcere di Santa Marta, dal titolo Non vogliamo essere recuperate. Il 14 febbraio ci sarà un evento presso il Museo della Memoria Indomita, che mira a raccogliere fondi per i prigionieri politici e gli anarchici. Essendo in carcere, le informazioni che abbiamo sull'evento sono poche. Non sappiamo chi sta organizzando, ma sappiamo che i nostri nomi figurano nella lista dei prigionieri per i quali l'evento è organizzato. Vorremmo chiarire che sembra strano che persone che non conosciamo e con i quali non siamo affini utilizzano i nostri nomi senza informarci. Il fatto di essere in carcere non significa che non abbiamo voce. Questi atti di solidarietà in cui tutti i prigionieri sono messi insieme ci fanno pensare al recupero cieco delle persone imprigionate, che siano politici o anarchici. Fin dall'inizio siamo sempre rimaste ferme sulle nostre posizioni e rotture. Sembra piuttosto strano vedere i nostri nomi accanto a quelli di Brian Rice, Jacqueline Santana e Jamspa in un evento pubblico di solidarietà. Forse la loro intenzione è di costruire relazioni tra diversi gruppi. Questo l'abbiamo capito, ma sappiamo anche che ci sono ragioni per questa mancanza di relazioni. Ci sono metodi e intenzioni molto diverse e rotture probabilmente inconciliabili. Per noi il sentimento di affinità è primordiale nella nostra lotta. Noi non ci consideriamo come prigionieri politici, non attacchiamo le istituzioni del potere per migliorare la società. D'altro canto, in carcere ci rapportiamo con tutti i tipi di persone con le quali non necessariamente condividiamo affinità di lotta. Persone che non si preoccupano di politica, che per la maggior parte credono in Dio e non sono mai andati a scuola. Con esse costruiamo anche i punti di forza e viviamo molteplici momenti di sovversione dell'ordine esistente. Sarebbe ridicolo organizzarsi unicamente con chi si autorivendica prigioniero politico. Non ci stanno simpatici la maggior parte dei prigionieri politici e di fatto tantomeno la maggior parte degli anarchici. Il bello è quello di iniziare da qui con l'energia che si ha. Se ci separiamo da questo gruppo che organizza l'evento non significa che rompiamo con tutto il mondo. Facciamo rottura con coloro che si identificano come autoritari, partitisti o di sinistra. Inoltre apprendiamo che l'evento si terrà presso il Museo della Memoria Indomita, istituzione di Stato. Noi non vogliamo alcuna mediazione con lo Stato. Ripetiamo, non abbiamo alcuna affinità con nessuna delle persone citate, tranne Carlos, né con le persone che stanno organizzando l'evento. Essi non considerano le rotture che già esistono, ma tendono solo a fare presa. Noi non vogliamo essere recuperate. Andate avanti con il vostro evento di solidarietà, ma senza i nostri nomi. Quelli che ci sostengono sanno il perché farlo e condividono un'affinità con noi. La miglior solidarietà è sempre l'attacco per la distruzione totale dell'esistente, fuoco alla civilizzazione, verso l'infinito e oltre. Fanlon Emily, reclusorio di Santa Marta, città del Messico. E questo era il testo delle due compagne detenute in Messico, arrestate insieme a Carlos per quanto riguarda l'accusa di aver dato fuoco a una concessionaria della Nissan durante una manifestazione e che comunque ecco perché venivano citate nel, come saluto nel testo di radiazione, perché si tengono fuori da quello che vengono dichiarati prigionieri politici, una definizione molto ampia, molto larga e molto spesso che butta nel calderone, come dicevo prima, sia prigionieri anarchici, comunisti e di altre forme o di lotta o crimini comuni. Non è che non ci stanno simpatici crimini comuni, anzi, cioè meglio un rapinatore che agisce da solo che un rapinatore che agisce per mano della mafia o della camorra. Allora, questo era il testo di Amelie e Fallon. Ora ci ascoltiamo un brano. Loro sono Gold Town, I Spit on Your Grave. E poi dopo si torna qui con la lettura di Nessuno ci salva di Sergius Piasecki. It's not in the wind blows, it moves through the trees, sinister and haunting on its way as it creeps. I lie in this dark place, searching myself for the strength I had before it all came down. And if you were smart, you would have gotten farther, but now you can't be saved. The sinner will be chosen, his bones will be broken on this judgment day. I spit on your grave. Zardo non sapeva neppure dove avrebbe dormito quella notte. La sua camera, accanto alla sala comune, era stata evacuata completamente. Non aveva più letto, né mobili, né finestre. Il vento e la neve folleggiavano nel locale deserto fino a pochi giorni prima così animato. Zardon non se la perdonava di aver maltrattato le due serve che avrebbero potuto salvare qualche cosa se fossero rimaste lì e se egli non si fosse fatto odiare da loro. Il freddo e la fame la ebbero vinta e il vecchio, non sapendo dove andare a sbattere la testa, decise di recarsi dal nipote. Gli venne ad aprire Nashtka, che, appena lo vide, gli sbarrò decisamente il passo. «Il signorino non è in casa e io ho l'ordine di non lasciare entrare nessuno in sua assenza». «Ma ti stai scherzando, non mi riconosci?» gridò Zardon, fingendosi adirato e cercando di entrare nonostante la resistenza della ragazza. Ma questa perdette la pazienza e gli diede uno spintone così forte che Zardon dovette indietreggiare oltre la soglia. «E quando è che tornerà a casa mio nipote?» urlò picchiando i pugni sulla porta che Nashtka gli aveva sbattuto in faccia. «Non lo so! Non ha detto niente!» Zardon sedette su una cassetta di legno in cortile, deciso da attendere l'arrivo di Jan, ripensando a tutte le disgrazie che gli erano successe, si commosse al punto di scoppiare in un pianto a dirotto. Jan rientrò piuttosto brillo e alla luce della pila elettrica scorse lo zio che, accasciato sulla cassetta, dormiva. Non sapeva nulla di quel che gli era accaduto, ma il vederlo lì, in quello stato, lo divertì un mondo. «Cucù, cucù, cucù!» gli strillò all'orecchio ricordandosi il nome della trattoria. Zardon balzò in piedi. «Accidenti, mi hai spaventato!» «Beh, zio, che cosa ci fai qui? Vorresti forse darmi qualche lezione di morale? È per questo che sei venuto!» «Jan, mio caro figliolo!» Zardon si mise di nuovo a piangere. «Sono appena uscito di prigione, mi hanno tenuto per 2 settimane, sono andato a casa, non c'è più niente, tutto è distrutto, rubato, non mi resta che impiccarmi, non ho più nulla!» «Ah sì!» fece tra lo stupito e l'ironico Jan. Gli interessava sapere come erano andate le cose, perciò lasciò entrare in casa lo zio e lo fece sedere a tavola, ordinando a Nashtka di portargli qualcosa da mangiare. Ma la ragazza si rifiutò con energia. «No, signore! Non lo farò e non gli servirò nulla. Non posso dimenticare che mi ha trattata peggio di un cane. Piuttosto me ne vado!» E giù a piangere anche lei. Jan si alzò e andò a prendere del pane e una scodella di minestra che mise davanti allo zio. «Tò, parente, mangia e intanto dici, su, parla!» Zardon si mise a mangiare con avidità e intanto raccontava tra una cucchiaiata e l'altra le sue disavventure. Sperava così di impietosire il nipote, ma questi, quando vide che lo zio aveva inghiottito l'ultimo boccone, gli disse: «Adesso che ti sei rifocillato, piglia la porta e vai, vai! Se mi passi qui la notte, addio! Domattina diresti che la casa è tua. Non sei tipo da impiccarti tu! In qualche modo te la caverai a costo di spogliare qualche altro imbecille come me e guardati al mettere ancora piede, sì, qui dentro!» Gli porse un biglietto di banca che Zardon prese piagnucolando. «È così che tratti tuo zio, vergognati!» Jan, che fino a quel momento era stato fin troppo paziente, esplose. «Merda, sei stato tu che ti sei dimenticato per primo di essere mio zio. Avrei dovuto lasciarti crepar di fame. Vattene coi tuoi piedi prima che usi i miei per farti uscire da qui. Mi fai schifo. Solo per questo non ti metto le mani addosso.» Zardon uscì dal cortile, ma fatti pochi passi si voltò minacciando col pugno il nipote, benché questi avesse già chiuso la porta. «Ti farò vedere io, moccioso. Dovrai pregarmi che ti permetta di lustrarmi le scarpe.» Si avviò per la provinciale di Logoyosk e si fermò a dormire in un albergo popolare. E questi erano Mussolini & Kick con il brano Your God Is Dead. Ovviamente il nome è una presa per il culo, calci in faccia, Mussolini calcia in faccia, altrimenti non mettevamo una cosa del genere su, sulla reazione. Ora si passa al testo, finalmente una notizia buona dopo tante cattive. Alcune cattive che ci arriva da Montevideo in Uruguay, dove c'è stato un attacco in solidarietà con Monica Caballero e Francisco Solar. Allora, leggiamo il testo rivendicativo. All'alba di venerdì 3 febbraio, un attacco incendiario ha avuto luogo contro l'ufficio del Partito Popolare di Spagna, PP, a Montevideo. Il gesto è stato fatto in complicità con Monica Caballero e Francisco Solar, arrestati ed incarcerati da più di un anno dallo Stato spagnolo, accusati di appartenenza ad un'organizzazione terroristica e di aver piazzato un ordigno esplosivo. Questo partito è ora il principale partito in Spagna e i suoi politici sono tra i principali responsabili di persecuzioni e procedimenti contro i compagni della guerra sociale in questo territorio, come nel recente caso dell'operazione Pandora. Questi sono tra quelli che alla fine del 2014 hanno promosso ed approvato la cosiddetta Ley Gag, che tra l'altro prevede sanzioni e restrizioni per far diminuire le proteste in strada, le occupazioni di case e l'ingresso di immigrati. Siamo dappertutto, comando Matteo Morral. Poi c'è una nota: Ley Gag, più conosciuto come Ley Mordaza, legge bavaglio, ed è stata approvata nel 2014. E in più ricordiamo che il comando Matteo Morral è il gruppo a cui vengono accusati i due compagni Francisco Solar e Monica Caballero di essere appartenenti per aver attuato degli attacchi in Spagna contro le cattedrali. Ora ci ascoltiamo un brano, poi dopo si torna qui e si leggono due letture uno dietro l'altro di Nessuno ci salva, ovviamente intervallata da un brano musicale, e poi finisce la diretta d'azione per oggi. Il brano vi salutiamo dandovi appuntamento anche a venerdì. L'appuntamento è per venerdì prossimo con la diretta d'azione di Solo Controinformazioni, le riflessioni e anche le provocazioni. Ora ci ascoltiamo un brano, la musica ovviamente per intervallo e provocazioni. Ora ci ascoltiamo un brano degli Ansel e poi dopo si torna qui e Nessuno ci salva di Sergio Spiasecchi. Thing you're talking about. Did it have the body of a shark and the arms and face of a man? Yes, you have met the dangerous 28-year-old uncle of Dr. Octagon. I myself, Mr. Gerbic, half shark, half man. Skin like alligator, carrying a dead walrus. White eyes, gray hair, face of sky blue, yellow. Sideburns react, my skin is colored lilac. My skin's an orange and green, in the limousine. I think I'm mixed with shark, drinking gasoline. Underwater I breathe, and let loose on my sleeve. Walking down Hollywood Boulevard, living credit card. Three alligators behind me, feel my skin as I'm transvestite. Some people watch space parasites. I left this head in the store, legs in the street. Body and work up to blood dripping off my feet. LAPD from gray clouds couldn't see me. I first turned rainbow, close my eyes, watch my brain glow. People got scared and ran the way they think I'm weird. I was born this way, a shark alligator. Is he weird? Half shark alligator, half man. Half man, half shark. Half shark alligator. Cover your skull like thoroplasm. Lightning bugs turn pink. On my tongue catches spasms. Green elephants, I battle streets with a zebra. My mechanism is more than Diana's psychic voodoo. African bit snakes and cold strip through you. When echo passes, you can't see with greedy glasses. Carbon dioxide won't break through with glasses. My description, dinosaur. I was made half shark, half man. My skin is like razor blade 707. This is Mr. Gerbic. Verbally, no one changed my thoughts. Animals black with Philly. My appetite won't make it stop. Just like the skull, I switch the colors. ammunition. Holding backwards raps to all my power packs. Baboons clap and girl horses wanna hit the sack. Retrieval for ocean water, monkey sniffing ice. Contact you for the pools, Martians bring my rice. I'm out flying with purple capes in the twilight. Ooh, ooh, ooh, tonight's the night. My oxygen regions, New York to California. Half shark, alligator, half man. Le avventure di Pavka. Tornò ancora una volta la primavera. Se quella dell'anno prima era stata precoce, irrequieta, capricciosa, questa poteva definirsi addirittura folle. Una giornata si annunciava luminosa e incantevole, ma qualche ora dopo accavallava nevi nuvoloni che in un attimo ricoprivano il cielo, alternando scrosci di pioggia e occhiate di sole, squarci di sereno e improvvisi uragani che subito dileguavano. Un giorno fondeva col suo alito caldo la neve, facendo gocciolare i tetti e trasformando le strade in sudici rigagnoli, in vaste pozzanghere, e un altro avvolgeva la città in un nuovo candido manto di gelida lana. La gente non sapeva più come vestirsi, usciva di casa con un radioso tempo primaverile e dopo un'ora doveva rientrare di corsa sotto la frusta irosa di un inverno ritardatario. Tutti imprecavano contro il tempo. C'era in giro una maligna influenza che portava via una quantità di gente, nel senso che le faceva morire. Non si erano mai visti tanti carri funebri andare verso il cimitero. I medici e i becchini non avevano riposo. Il negozio di Pavka tirava avanti alla bene e meglio, ma da un po' di tempo la ragazza non se la prendeva più di tanto a cuore. Si sentiva svogliata, irrequieta, insoddisfatta. Prima di tutto la tormentava la solitudine dalla quale cercava di sfuggire andando continuamente al cinema. E mentre andava sola per le strade c'era sempre qualcuno che la seguiva o le rivolgeva la parola, ma Pavka, dopo l'esperienza fatta con Tolus e Gregor, era diventata più prudente. Con un'occhiata valutava i suoi cascamorti, si accorgeva subito che non facevano per lei, no no, ma tuttavia la primavera accendeva anche in lei i desideri e gli istinti, sconvolgendole il sangue, suscitandole pensieri lubrichi e facendole passare le notti insonni. Si alzava al mattino stanca e irritata e cercava di scacciare quel senso di torpore immergendosi nella vasca da bagno piena di acqua fredda. Da una parte gli piaceva andare a spasso per mettere in mostra il suo florido corpo, ma dall'altra era terribile sentirsi desiderata e avere il fuoco nelle vene e lasciare insaziati i propri sensi. Provava un sordo rancore contro Jan e Nashtka semplicemente perché convivevano sotto lo stesso tetto, soprattutto contro la ragazza con la quale non aveva mai scambiato neppure una parola. L'insonnia suscitava in lei immagini della loro intimità e dei loro amplessi che avvenivano al di là di una sottile parete, vicinissimo a lei che invece giaceva sola nel suo letto. In certi momenti sentiva di odiare quei due esseri come se le avessero rubato la felicità che godevano. Avrebbe voluto vendicarsi in qualche modo e forse l'avrebbe anche fatto se non fosse stata trattenuta dalla paura di Jan. Qualche volta, sotto sotto, Pavka pensava anche a Baran, ma questi ricordi si collegavano sempre con questioni di danaro o col rimpianto dei regali che egli le faceva così spesso. Eppure nessun uomo aveva mai avuto per lei un affetto così solido e nello stesso tempo così pieno di tenerezza. Quel rammollito di Tolus, il parrucchiere, le tornava ora in mente con più insistenza, forse perché, con quel parrucchiere era sempre stata lei a prendere l'iniziativa nei loro rapporti intimi per tenerlo avvinto anzi, mentre Baran, sessualmente più sano, non aveva bisogno di incitamento o di stimoli per prendere la donna amata. Una donna normale lo avrebbe certamente apprezzato, ma Pavka si sentiva irritata contro di lui e lo giudicava rozzo perché non badava che a saziare i suoi sensi e poiché non dava nulla e si sentiva in dovere di pagare la propria donna. Una bella domenica Pavka uscì a far due passi. Vestiva più con civetteria che con eleganza, camminava dondolando i fianchi e lasciando dietro di sé una scia di profumo. A un certo punto si vide venire incontro dalla direzione opposta un uomo alto e distinto che attirò la sua attenzione. Egli la guardò passandole accanto e Pavka gli rispose con un'occhiata provocante, poi tirò dritto. Era curiosa di sapere se l'uomo l'avrebbe seguita, ma non aveva il coraggio di voltarsi per sincerarsene. Tuttavia, ogni suo movimento era studiato per attirare lo sconosciuto nel caso che questo si fosse deciso a seguirla. Era vicina al parco del governatore. Si incamminò in un viale ombreggiato e a sua volta poté constatare, guardando indietro con la coda dell'occhio, che non si era sbagliato. Lo sconosciuto, sì, l'aveva seguita. Paulinka allora ne fu felice. Accelerò il passo dirigendosi verso il ponticello sul torrente Slivovitz, oltre il quale cominciava la parte più selvaggia e inculta del parco. Aveva voglia di correre, di ridere, di cantare, ma si dominò e d'improvviso piegò a sinistra in uno stretto sentiero. L'uomo le era sempre dietro. Aveva compreso che essa voleva attirarlo e quando Pavka sedette su una panchina marcita dalle intemperie si piantò davanti a lei. Accidenti! Che gambe svelte! Disse sedendole accanto senza tanti preamboli. Pavka finse di cascar dalle nuvole. Chi è lei? Che cosa vuole? Lasci che mi presenti allora. Sono il sostituto del capocommissario per la zona numero 1 di Minsk. Mi chiamo Costantino Semenzev. Da ora Sament. Non trovò necessario di informarla che apparteneva alla polizia segreta, ma del resto questa informazione avrebbe lasciata Pavka del tutto indifferente, trovando ormai che tutto era in regola. E il allora gli tesi la mano. Piacere, il mio nome è Paulina Shurditz. Piacere. La gente si alzò e le baciò la mano, cosa che piacque molto a Pavka, benché la mettesse un po' in imbarazzo. È un vero signore, pensò. Sament in quel momento si trovava in servizio. Doveva sorvegliare un certo tizio la cui attività interessava al comitato rivoluzionario, ma decise subito che non valeva la pena di sacrificare ad un eccesso di zero un'avventura che prometteva di essere essi interessante. Così, appena seppe che Pavka andava matta per il cinema, le propose subito di andarci assieme, afferrando che era la sua passione. Pavka accettò senza obiezioni. Mentre andavano verso il centro, Sament la teneva a braccetto e le faceva un mucchio di complimenti, cercando di tirarle fuori qualche particolare della sua vita. Non fu un'impresa difficile, ma non perché lui fosse dei servizi segreti, ma perché la ragazza, eccitata e felice, chiacchierava senza posa. E poco dopo la gente sapeva l'essenziale, e cioè che era libera, che abitava da sola e che stava benino dal lato finanziario, e ciò notevolmente accrebbe il suo interesse per Pavka. Al cinema, Sament prese i biglietti per un palco e appena la sala fu immersa nel buio divenne subito aggressivo. Pavka dapprima si lasciò sbaciucchiare, ma quando le mani della gente Sament incominciarono ad accarezzare le gambe, facendosi sempre più audace, si volse a lui un po' infastiditi. Lasci andare per ora, non è mica il posto adatto, non riesco neppure a seguire la pellicola. Oh, mi scusi. Aveva compreso ormai che era solo questione di tempo e che non era il caso di darsi troppo da fare per preparare il terreno. Thank you. Your flower is here, your peace and love is burnt down. Only hush shields left for us. How high is our breathing? Your world is burning. Come and join our pain. We are one from the same generation. We subito aver conosciuto Baran Pavlka era andata con lui al cinema, aveva vissuto insieme un film sulla malavita i cui protagonisti erano i ladri. Questo, che ora seguiva con tanto interesse, si svolgeva pressappoco nello stesso ambiente, solo che l'eroe, invece di essere un malvivente, era un abilissimo detective. Le sue gesta erano mirabolanti e in un batter d'occhio era riuscito a scoprire il quartier generale di una gang di feroci banditi. Era riuscito a strappar loro dalle mani la bella figlia di un milionario che era stata rapita a scopo di ricatto e infine, dopo molte avventure, aveva arrestato, tendendogli abilmente un insidio niente meno che il capo dei banditi di Chicago, che era sempre riuscito a sfuggire dalla polizia. Pavlka emetteva piccoli gridi, torcendosi le mani per l'emozione, ogni tanto afferrava il braccio del suo compagno e lo scuoteva. Durante l'intervallo, forse per un'inconscia reminiscenza, gli pose la stessa domanda che in un'analoga situazione aveva fatto a Baran. «Avete paura dei ladri, voi?» Samantha si sentì offeso da questa domanda. «Temo che siano loro ad avere paura di me, paura di voi, e perché? Non capisco.» Allora, Samantha, spinto dalla vanità e dal desiderio di farsi bello di fronte alla ragazza, alzò col pollice il bavero della giacca e le mostrò il distintivo di agente della polizia segreta. «E che cos'è?» chiese Pavlka incuriosita, posando il dito sulla medaglietta. «Ah, nulla, è un gingillo che mi autorizza ad arrestare chiunque mi accomodi. Se lo faccio vedere a un poliziotto, questi si schiaffa subito sull'attenti mettendosi ai miei ordini.» «Sul serio?» Pavlka guardò con la bocca spalancata il suo cavaliere che, con aria di protezione, le cinse le spalle con un braccio mentre con l'altra mano le scivolò sotto la gonnella. E questa volta la ragazza non protestò. Si sentiva addirittura venir meno per l'emozione e non riusciva che a fingere goffamente un pudore insidiato che non sentiva. Quando uscirono dal cinema e Samantha le propose di andare insieme a cena in qualche ristorante, ella azzardò una controproposta. «E non sarebbe meglio se andassimo a casa mia? Sono in grado di offrirvi una buona cenetta, però temo di non aver nulla da bere.» Le carezze di Samantha volta. L'avevano talmente eccitata che era decisa ad arrivare fino in fondo al suo flirt quella sera stessa, rinunciando alla parte di fanciulla pudica. Naturalmente la gente non aveva obiezioni al suo progetto, e in fondo la ragazza gli piaceva, era ben messa, pulita e prometteva bene. Non doveva essere neppure una povera diavola, dato che aveva un negozio e un appartamentino. Strada facendo, entrarono in un negozio di cui Samantha conosceva il proprietario. Vi comperò del cognac, del prosciutto, delle scatole di sardine, o meglio, tutto ciò che gli fu offerto in omaggio, perché il padrone, i cui loschi traffici erano noti a certi agenti della polizia segreta, non volle, come al solito, accettare denaro col pretesto di non avere il resto. Usciti, si avviarono verso la collinetta d'oro. Samantha guardava di sottecchi la sua nuova amica, che lo attirava non soltanto dal punto di vista sessuale. In fondo, egli disponeva di tutte le donne che voleva, ma era ben lungi dall'approfittarne, dato il suo temperamento tutt'altro che focoso. In genere, lo interessavano solo quelle che avevano molti quattrini. Samantha, tanto che invece si sentiva attirata da quell'uomo ben piantato, fine ed elegante. La lunga astinenza contribuiva a rendere ancora più affascinante ai suoi occhi quell'uomo che subito ai primi approcci era riuscito ad eccitarla. Attendeva con impazienza il seguito della banale avventura, decisa a condurla a termine secondo i suoi piani. Avrebbe finto dopo alcuni bicchierini di essere ubriaca e si sarebbe buttata, sì, buttata sul letto. Il suo intuito le suggeriva che, nonostante l'intraprendenza dimostrata, Samantha era un uomo piuttosto fiacco, e ciò la preoccupava, perché Pavka si sentiva addirittura ammalata di desiderio. Nello stesso tempo c'era qualcosa in lui che le ricordava il suo primo amore, il parrucchiere Tolus, che era sempre indolente e svogliato con lei e aveva sempre l'aria di farle la carità quando le concedeva qualche soddisfazione. La casa di Pavka non suscitò l'entusiasmo di Costantino Samantha, che, data l'eleganza della sua amica, si aspettava un appartamento più decoroso. La prima cosa che pensò fu che era troppo lontano dal centro della città e che non sarebbe stata comoda per lui se avesse incominciato a frequentarla. Pavka, a naso, intuì subito i pensieri del compagno e con finta disinvoltura disse: «Ecco il mio piccolo nido segreto. È un pezzo che cerca un appartamento più centrale e soprattutto più signorile, ma è così difficile oggi. D'altra parte, questo appartamento ha il vantaggio di essere a due passi dal mio negozio. A proposito, non aspettatevi di vedere un negozio di lusso, al contrario, non fa molta figura, però rende molto meglio di tanti altri che si trovano in centro e magari hanno su delle ipoteche. Dico questo perché non vorrei che trovasse eccessivamente modesta per le vostre abitudini questa mia casetta». Costantino Samantha borbottò che neanche per sogno, che non era solito formalizzarsi e che, senza neppure togliersi il paltò, sedette vicino alla porta. Pavka lo costrinse a svestirsi ed accomodarsi a tavola. Gli diede in mano una rivista e, dopo essersi messo un grembiulino bianco, si diede subito da fare per preparare la cena. Tanto era stata avara con Baran quanto gli si dimostrò generosa con Costantino. Voleva preparargli un vero banchetto e tirò fuori persino una bottiglia di vino vecchio e un'altra di vodka zarista. Stese sulla tavola una tovaglia di finissimo lino e incominciò a disporvi sopra degli antipasti. Si muoveva con grazia e sveltezza mentre Samantha lo osservava, e gli venne il fatto di pensare che doveva aver fatto parecchia pratica in quella sua bettola, dove forse era sola a servire i clienti. Tuttavia la guardava con piacere, era così linda e carina. E poi gli girava intorno e faceva tutte quelle smorfiette proprio per lui, e ciò lusingava la sua vanità. La sua simpatia per lei aumentò man mano che la tovaglia si copriva di bottiglie di cibi prelibati. Come tante altre donne in circostanze analoghe, Pavka non sospettava neppure quanta importanza avesse per il suo ammiratore il lato culinario della loro tresca. Quando tutto fu pronto, si scusò con Samantha Si scusò di lasciarlo in un momento solo. Il tempo mi danno a cambiare per la scena, oh mio Dio. Andò in camera da letto e si spogliò in fretta e furia. Poi si massaggiò con acqua di colonia, versandosi su tutto il corpo e sui capelli quasi un intero flacone. Si infilò la sottoveste più fine che avesse, calze nuove, un paio di scarpe che si era appena fatte fare e un elegante abito da sera di seta che sì, questo gliel'aveva regalato Baran e che aveva indossato pochissime volte. Si pettinò con cura, si incipriò il viso e si ritoccò perfino le labbra, benché le avesse per natura già molto accese. Davanti alla specchiera si soffermò a contemplare la propria figura resa più snella da quell'abito attillato. Era veramente bella. E con l'aria birichina si ammonì col dito, atteggiò le labbra a un affascinante sorriso e tornò nel salotto dove incominciava a tamburellare con le dita sul tavolo. Con un gesto grazioso della mano lo invitò a prendere posto a tavola. Favorisca, gradisca, prego. La gente la guardò gradevolmente sorpreso. Era del tutto cambiata, sembrava più snella, più felsosa, più felina. Ma lei è veramente incantevole, le disse con sincera ammirazione. Pavka sorrise soddisfatta. Oh, anche lei come uomo non è affatto brutto. Si dettero e si misero subito a mangiare con appetitosa menta. Cominciava a riempire il proprio bicchiere e quello di Pavka, che dopo qualche debole protesta lasciò fare. Sì, le piaceva l'idea di perdere un po' la testa. Dapprima il desiderio di ubriacarsi le era venuto perché aveva timore di non avere abbastanza coraggio all'ultimo momento e di mostrarsi goffa, ma ora non voleva mostrarsi da meno del suo ospite, il quale doveva avere la sensazione di trovarsi di fronte ad una donna mondana, navigata e sicura di sé. La cena si protrasse piuttosto a lungo. Verso la fine Pavka vedeva girare tutto intorno a sé e non aveva che un solo desiderio: ridere. Radio Azione. Radioazione.org. Radio Azione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica.